Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come abbiamo fatto anche gli anni scorsi, in questo periodo, anche quest'anno, per tre serate ci occuperemo di dissesto idrogeologico e di alcuni nuovi strumenti elaborati dal mondo della ricerca per aiutarci a difenderci da crolli, smottamenti, terremoti, alluvioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Cominciamo questa sera parlando di frane. Sono 500.000, pensate, quelle oggi già note e mappate sul territorio italiano, eppure si tratta di una minima parte del totale. Come ben sa il nostro ospite, Fausto Guzzetti, direttore dell'IRPCNR, l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buonasera Guzzetti. Buonasera. Cominciamo da questa mappatura incompleta. Cosa state facendo per migliorarla e poi che cosa ve ne fate una volta che avete una mappatura più precisa? Ma negli anni scorsi il Servizio Geologico Nazionale assieme alle regioni ha fatto questo prodotto che è una mappa appunto delle frane di tutta Italia, cartografando oltre 500.000 di frane, che è un prodotto unico in Europa. Nonostante questo, noi siamo in grado di dimostrare che è sottostimato e stiamo mettendo a punto tecniche per una mappatura delle frane, soprattutto, come diciamo noi, post-evento, per esempio le frane innescate da un evento di pioggia. Ecco, che potrebbero essere quante? Ordine di grandezza? È un ordine di grandezza in più. Quindi, noi da pochissimo abbiamo cartografato più di 1.600 frane in due piccoli comuni delle Marche, in 300 km quadri, 1.600 frane innescate da due eventi di pioggia. Quindi perlomeno, fantastico, perlomeno milioni, perlomeno, se non nell'ordine della decina o più di milioni. Esattamente, e noi quello che facciamo è cercare di spremere il limone che è contenuto in immagini satellitari ad alta ed altissima risoluzione il più possibile per riuscire ad ottenere delle mappature semiautomatiche in tempi molto brevi dopo un evento di pioggia. Questo è utile per esempio alla protezione civile per capire cosa è successo e dove è successo, ma è utile anche nella ricostruzione ed è utile anche per capire quanto buone sono le previsioni, i modelli previsionali delle frane che noi pur facciamo. Voi li fate, quindi li perfezionate vedendo quanto corrispondono le vostre previsioni sostanzialmente alla realtà. Di recente avete cominciato, ma in qualche modo lo accennava già, anche a utilizzare dei dati pluviometrici. State facendo qualcosa anche qui di molto raffinato? Sì, ormai sono qualche anno, sono 4-5 anni che abbiamo messo a punto e stiamo continuando a sviluppare un sistema che prevede la possibile occorrenza di frane in Italia, in tutta Italia, frane indotte dalle piogge. Noi ci basiamo sulle misure di oltre 2.000 pluviometri sparsi in giro per tutto il territorio nazionale e sulle previsioni meteorologiche, in particolare quelle quantitative, che confrontiamo con delle soglie, dei livelli che noi abbiamo determinato per le diverse aree del paese e ogni ora di ogni giorno facciamo una previsione per le successive 24 ore. Ecco, mi diceva che è una cosa molto sperimentale, poi dovete anche farla rapidamente, se no servono a poche queste previsioni, immagino. Esattamente, è un sistema che pur essendo in piedi da oltre 4 anni è ancora prototipale ed è un esercizio anche tecnologico non indifferente. Pensi appunto al fatto di ricevere da tutta Italia i dati di 2.000 pluviometri sparsi tra le montagne e le colline di tutto il paese, unire a questo i dati delle previsioni meteorologiche, i dati per esempio di suscettibilità di frana che abbiamo noi e arrivare con delle previsioni e farlo ogni ora. Insomma. Ecco, qui abbiamo parlato di un tipo di previsioni sulle frane simili alle previsioni del tempo, no? Ci dicono domani c'è una certa probabilità che piova oppure no. Ma voi lavorate anche su un altro tipo di previsioni a cortissimo raggio, che esistono anche in meteorologia, si chiama nowcasting, cioè lavorate su delle frane che conoscete bene, dove pochi minuti di preavviso possono anche salvare delle vite in qualche caso. Ci spiega? Sì, abbiamo messo a punto alcuni sistemi di letteralmente nowcasting delle frane basati sul monitoraggio. Uno degli ultimi che abbiamo messo a punto è focalizzato su una particolare tipologia di frana, sono le colate di detrito, che sono tra l'altro frane molto veloci e che pericolosissime che possono, sono quelle che causano più morti. Sì. Si ricorderanno le frane per esempio di Sarno, ecco, certo. Parliamo di quella tipologia di frana. Noi abbiamo messo in piedi uno strumento, una stazione che letteralmente sentendo il rumore sismico che la frana, questa colata sta scendendo. Ci sono dei microfoni appositi, si chiamano geofoni, che vanno sottoterra. Sì? Esattamente, che ci dicono che sta arrivando la frana. con che velocità sta arrivando la frana, se è tutta acqua o se c'è tanto fango, tante rocce. Certo. Ed è in grado, per esempio, questo sistema non solo di dirci che sta arrivando, ma anche di fare qualcosa. Sì. Per esempio, di far saltare un semaforo e dire si chiude un ponte, una strada che passa su un ponte. Cioè, grazie Fausto Guzzetti, allora avanti così. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.